caso difficile. Un monaco è stato ucciso a un convento di sorelle dove stava facendo il restauro di un corpo di un beato. Il corpo incorrotto è disparito. Dal punto di vista personale, che cosa è cambiato nella vita di Petra? Si è sposata alla fine del libro scorso e allora la vediamo alla sua nuova vita con i quattro ragazzi del suo marito. Per lei tutto è nuovo. Molti giallisti rimangono sempre fedeli a un loro personaggio, a un protagonista. Lei ha intenzione di rimanere fedele a Petra per tutta la vita? No, assolutamente no. Penso che quando Petra ha finito la sua vita, quando le storie di Petra sono troppo simili, non so cosa faremo con Petra, ma se non ha cose nuove da dire, sarà la fine.